Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un tema che abbiamo già affrontato nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, sollecitati da numerose lettere che stanno giungendo in redazione per tornare su questo argomento. Il tema che affrontiamo è quello del disagio mentale. Ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Torniamo a parlare di disagio mentale e come lo facciamo? Sentite un po' qui. Rete 180, la voce di chi sente le voci. Rete 180, la voce di chi sente le voci. La voce di chi sente le voci. Ecco qui, nella mia somma ignoranza, e un buon giornalista deve ritenersi un sommo ignorante, non conoscevo l'esistenza di questa radio del network Rete 180. Per saperne di più potete andare sul sito www.rete180.it per conoscere frequenze, programmi, di cosa parla e quant'altro. Ebbene, benvenuta a questa radio che prende spunto dal nome della legge che nel 78 regolamentava e regolamenta i trattamenti sanitari volontari e obbligatori per le malattie mentali, e benvenuto all'editore di Rete 180, Giovanni Rossi. Buongiorno Rossi. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, Giovanni Rossi nella vita è direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova. E benvenuto al direttore artistico di Rete 180, Enrico Baraldi. Buongiorno Baraldi. Ben trovati a Radio 24. Allora, Enrico Baraldi è psichiatra e ovviamente, come tutte le persone intelligenti, prende anche, come dire, bonariamente in giro la propria professione, perché è autore di un libro, Psicofarmaci agli psichiatri. Qual è l'editore, Baraldi? È Stampa Alternativa, non è neanche tanto bonario. Benissimo. Cioè, è abbastanza una denuncia. Bene, e allora chi è interessato ad acquistarlo può farlo. Psicofarmaci agli psichiatri. Stampa Alternativa è l'editore. Partiamo con la nostra chiacchierata con Giovanni Rossi. Allora, come vi è venuta in mente l'idea di creare un network radiofonico che si chiama Rete 180? Beh, guardi, noi ci occupiamo, facendo i medici, delle persone che stanno male, e il nostro dovere è di provare a trovare delle strade per farli stare bene, per farli guarire, per farli migliorare. Da quando esistono gli psicofarmaci sappiamo che gli psicofarmaci fanno effetto solo su una parte delle persone, non su tutte. Quindi un medico serio deve anche cercare strade di cura per quelli che non rispondono agli psicofarmaci. La comunicazione è interrotta o distorta, è uno degli elementi base della malattia mentale. I deliri, le allucinazioni, i comportamenti ossessivi sono dei problemi anche di comunicazione. Riappropriarsi della comunicazione direttamente, non subendola, come dice Luciano, facendo la radio invece che ascoltando o guardando la televisione, si diventa attori della comunicazione e anche attori della propria cura. Assolutamente. Allora, io a questo punto vorrei chiedere a Baraldi come ci si trova a lavorare in una radio con persone che hanno delle abilità diverse e con dei radioascoltatori che probabilmente sono familiari o sono essi stessi delle persone con disagi mentali. Che tipo di lavoro è il suo, Baraldi? Roberto, per fortuna è un'esperienza ancora più interessante che fare lo psichiatra, perché si entra veramente in contatto con una redazione particolare, perché è costituita da persone con dei disturbi, e quindi Rete 180, come recita poi il jingle, è la voce di chi sente le voci. E allora è veramente un'occasione, una potenzialità molto grossa di stare vicino a persone sofferenti, ma che hanno anche grosse capacità, grosse potenzialità, hanno una simpatia straordinaria, una capacità creativa che non è comune. Ecco. Chiaramente alla radio abbiamo questa opportunità di sviluppare i numeri di chi dà i numeri, in qualche modo, certo, cioè gli aspetti più creativi, più simpatici di queste persone, non dimenticando la sofferenza, il disagio, l'emarginazione, lo stigma che spesso grava sulla malattia mentale ancora di più che la malattia. Ecco, ed allora le vorrei proprio chiedere questo, Baraldi, una domanda che ho fatto anche agli altri ospiti che sono intervenuti nelle scorse settimane nelle puntate dedicate al disagio mentale. Il territorio di Mantova, la bella e ricca provincia di Mantova, che tipo di accoglienza riserva, di integrazione sociale e lavorativa ai disabili mentali? Cioè, l'abuso è qualcosa di quotidiano, di saltuario, di ripetuto oppure di eccezionale? Ma guardi, noi rispetto al territorio mantovano non possiamo che ringraziare, nel senso che da una parte ci dà delle opportunità e delle occasioni di intervento che sono per l'appunto straordinarie. Ricordiamo soltanto il Festival Letteratura di Mantova, ci ritroviamo immersi per una settimana a settembre in un'atmosfera di creazione letteraria con premi Nobel che partecipano alla vita della città, e Rete 180 non può che trovare in questo un'occasione di e fare giornalismo, ma diventare anche protagonista dell'evento, per cui una delle cose belle che abbiamo fatto è stato appunto di frequentare il Festival Letteratura a bordo di un asino, come dire che tutti, non soltanto i premi Nobel, ma possono, ciascuno può presentare una propria produzione, può raccontare un proprio racconto, può recitare una propria poesia, anche se in qualche modo è un po' un asino. Bene, ma questa, bene. Questa particolarità, questa ricchezza è anche una ricchezza di disponibilità, per cui il dottor Rossi poi è a capo di una cordata di inserimenti lavorativi che trova proprio a Mantova, nella provincia di Mantova, una risposta particolare e molto importante. Bene, allora lo facciamo risentire il jingle per piacere dalla regia? Rete 180, la voce di chi sente le voci. Rete 180, la voce di chi sente le voci. La voce di chi sente le voci. Beh, insomma, siete anche ironici, direi, Rossi, vi prendete in giro da soli. Sì, ma posso fare una battuta appunto sul filo sempre dell'ironia. Tanti anni fa si ricorderà che quando Agnelli ebbe un problema di cuore fu importante che venisse ricoverato a un ospedale pubblico di Torino perché era il migliore e quindi ci andava anche Agnelli. La nostra ambizione come servizio di Mantova è quello di poter essere a disposizione di tutti coloro che hanno problemi lievi o gravi di malattie. Assolutamente. Assolutamente. E quindi siamo il servizio anche della Presidente della Confindustria, Emma Marcegaglia, che è di Mantova, per cui noi nella nostra ambizione delirante ci immaginiamo che anche queste persone, nel caso avessero un problema di stress o qualsiasi altro, pensino che il miglior servizio a disposizione sia il nostro. Ma sicuramente la Marcegaglia è carino questo invito che lei fa, potrebbe averne bisogno, ma sicuramente non ma per problemi di salute mentale, perché mi no, pare ma poi che noi promuoviamo la salute mentale, che non certo. è una chiaro. Beh, noi estendiamo l'invito al presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che appunto viene dal vostro territorio, chissà che non possa essere anche veramente un buon sponsor di promozione per il Dipartimento di Salute Mentale e per la vostra radio. Del resto, voglio dire, si parla molto spesso di etica delle imprese, io direi che questa sarebbe una buona occasione, no Rossi? Imprese private mantovane rispondono molto bene, noi abbiamo un portafoglio aziende di 400 imprese private nelle quali abbiamo collocato negli ultimi 3 anni 40 persone che sono state assunte regolarmente. Bene, bene, bene, bene, questo mi fa piacere anche l'invito alle imprese e a chi le rappresenta tutte sul territorio italiano affinché possa promuovere ancora di più l'integrazione sociale. Le chiedo questo, Rossi, visto che lei lo stava accennando, ma quali sono le altre iniziative collaterali che avete studiato oppure che avete allo studio? Appunto, come dicevamo, Rete 180 ormai diventa un network e quindi, per esempio, abbiamo un gruppo di donne che ritiene di poter trovare una sua strada di star meglio nella società e nelle loro famiglie attraverso un lavoro più creativo rispetto a quello di fare come si fa di solito le pulizie, insomma. Certo. E hanno messo in piedi un atelier di accessori moda femminili che si chiama Depression is Fashion. Ah, fantastico, ripetiamolo. Depression is Fashion, cioè la depressione fa moda, fa tendenza. Moda, esattamente. Un po' sempre scherzando su questo fatto che ormai siamo tutti depressi e quindi possiamo anche andare tutti a comprare le borse, le borsette. E dov'è che si possono comprare queste borse, Rossi? Anche sul sito internet che è appunto www. www.depressionisfashion.it. Ah, oh, fantastico. Oppure nella nostra sede a Mantova, nell'atelier di Mantova. Di Mantova, bello, un atelier di questo tipo, voglio veramente visitarlo. Ricordiamo che l'ironia di Rossi e di Baraldi nel sito prosegue. Ironia ma anche riflessione, come ad esempio questa frase con la quale vi lascio, nel lasciarvi ringrazio i nostri ospiti: la mente è come un paracadute, funziona solo se si apre, e lo diceva un tale che si chiamava Albert Einstein. Con questa riflessione ringrazio anche in regia Peter Bescapè, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.